ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno, torna il consueto appuntamento di Obiettivo Salute con le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e oggi ripartiamo con una meta-analisi che ci suggerisce gli attrezzi giusti da portare con noi per cominciare a vivere una nuova quotidianità. In linea la professoressa Gwendalina Graffigna, ordinario di psicologia all'Università Cattolica di Milano e direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'Università Cattolica. Professoressa Graffigna, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta, ben ritrovati. Sì, oggi vi commento questo studio molto recente che è stato condotto dai ricercatori della Università di Houston in Texas, dove hanno fatto una meta-analisi, cioè sostanzialmente hanno comparato diverse evidenze scientifiche che sono state pubblicate negli ultimi anni, pensate addirittura 154 studi scientifici, per andare a studiare e dimostrare quali possono essere i protettori rispetto allo stress, rispetto al disturbo post-traumatico da stress, e hanno dimostrato come la speranza, l'ottimismo e la percezione di autoefficacia siano degli ingredienti psicologici che proteggono le persone dall'effetto traumatico di alcuni eventi e che ne aumentano la capacità di resilienza, quello di cui abbiamo parlato molto anche nei mesi passati, cioè la capacità di essere un po' flessibili e di adattarsi in modo positivo e proattivo ai cambiamenti e agli eventi critici della quotidianità. Quindi, professoressa Graffigna, riprendiamo, come si dice, il passo e facciamolo adeguatamente attrezzati. Iniziamo il nostro allenamento a partire da oggi. In psicologia è ampiamente dimostrato quella che viene detta la profezia che si autoavvera, e cioè che se noi partiamo con il piede sbagliato, abbiamo la sensazione che le cose saranno faticosissime, andranno male, che non ce la faremo proprio a superare quegli ostacoli, ecco, ahimè, da un punto di vista psicologico ci autoboicottiamo. Poi, per carità, gli eventi del mondo, del tempo, non li sappiamo prevedere, l'abbiamo visto nei mesi passati, ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo e non siamo dei maghi, dobbiamo cercare di adattarci e traghettare un po' il presente, però da un punto di vista psicologico possiamo darci un contributo. Se partiamo negativi rischiamo di enfatizzare anche l'esito negativo di quelle che sono le nostre azioni. Se invece partiamo positivi, ottimisti e soprattutto pensiamo di potercela fare, ecco, questo dà un contributo sicuramente positivo alla nostra azione e ne può aumentare anche l'efficacia e le probabilità di successo. Quindi questo secondo me è un po' il messaggio di questa meta-analisi. Partiamo col piede giusto, partiamo positivi, partiamo convinti che ce la potremmo fare a superare anche tutte le difficoltà piccole e grandi che ci aspettano in questo autunno, in questa ripresa. Grazie professoressa Graffigna per essere stata con noi. Grazie mille a voi e alla prossima. Come sempre vi invito sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, dove potete trovare i nostri incontri, le nostre pillole di salute. Con un sorriso, una buona giornata da Nicoletta. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.